buonasera, si sente? Buonasera, oggi in una trasmissione semi autogestita, cominciamo entro via Massima come tutti i lunedì, complicati dal coronavirus, e abbiamo pensato di continuare la nostra programmazione ordinaria. Tra l'altro avevamo, oggi è il set, diciamo, Libera Scienza in Libero Stato. Buonasera a tutte e tutti, superato l'iniziale, diciamo, incapacità tecnica che speriamo non crei nessun disagio più di quello che già sentite. E continuiamo, oggi abbiamo un tema particolare che introdurrà direttamente. Oggi facciamo tutto a rovescia, non faremo l'introduzione che facciamo di solito con la nostra prosopopea, la nostra dialettica esasperata ed esagerata, perché invece volevamo concentrarci già da tempo su una scoperta scientifica che in questi tempi assume anche un altro interesse per tutta la comunità in ascolto e tutta la comunità colpita da questa emergenza, le cui dimensioni ancora non riusciamo completamente a contenere, ma a comprendere, ma che comunque ci preoccupano, almeno personalmente sono preoccupato. E casualmente parliamo con una persona che adesso introdurrà, Jacopo, uno scienziato che ha condiviso con un team o più di un team di scienziati cinesi una scoperta scientifica che in questo caso qui riguarda l'astronomia e riguarda la scoperta appunto di questi corpi oscuri e sconosciuti che ci hanno accompagnato tutto lo scorso anno. L'occasione, tanto per fare un breve, diciamo, brainstorming collettivo su quello che sarà il resto della trasmissione, l'occasione è ottima per ragionare e per farci raccontare un pochino i rapporti, quelli che sono i rapporti tra la scienza e il potere in Cina, visto che questo ricercatore ha lavorato con questi team cinesi. Da lì ovviamente scambieremo delle idee e alla fine arriveremo alla situazione attuale, anche magari analizzando molto rapidamente, senza alcuna pretesa di dare delle risposte, ma soltanto per farci delle domande insieme, domande che poi magari nei prossimi mesi o anni sviscereremo a fondo, delle domande passando dalla Cina, da come la Cina rispetto a quello che è venuto fuori fino adesso ha affrontato questa emergenza che stiamo vivendo noi con un mese di anticipo rispetto a noi, e come anche in Italia i rapporti tra scienza e potere diventano in questo caso una cosa da su cui mettere l'occhio, senza assolutamente adesso vedere se c'è la prevalenza del potere sulla scienza, se la scienza, giusto per dare qualche indicazione anche rispetto ad episodi che sono successi recentemente, quelli che ci ricordiamo io e il comandante Jacopo qui presente, giusto così per mettere, diciamo, per fare un indice teorico, ipotetico di una futura trasmissione che rifletta su questi temi. Quindi io, senza perdere tempo, visto che già abbiamo cominciato con leggero ritardo, passo la parola al comandante Jacopo che introduce, speriamo di riuscire, il nostro ospite. Allora, Jacopo, ti dovresti sentire con questo. Vedi un... Scusate, ma oggi problemi tecnici. Sì, adesso io mi sento. Ah, eccolo qua. Adesso è arrivato. Ci sentiamo, grande Lorenzo. vabbè. Piano piano per appunto. A un certo punto riusciremo pure a mettere. Decidiamo, a un certo punto mettiamo una canzone. Se ci riusciamo. Vabbè, prego. Come si dice nelle scienze, in matematica si va per approssimazioni successive. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, sì, riprendendo l'introduzione di Lorenzo, io adesso parlerò dei buchi neri, come al solito. Ci abbiamo parlato tante volte di buchi neri, ma non ne parlerò a fondo, ovviamente, però semplicemente per introdurre la scoperta che poi il nostro ospite spiegherà con molta più dovizia di dettaglio, e quindi vi dirò che cos'è questa scoperta. Allora, è stato scoperto da questo team di scienziati, tra cui anche l'Italia, comandati appunto da Jifeng Liu, questo astrofisico cinese, un buco nero. È stato scoperto un buco nero vicino alla Terra questa volta, un buco nero che si trova più o meno, adesso io ovviamente questo è un argomento, anticipo questa cosa perché ovviamente poi la sviscereremo un po' con il nostro ospite, da quando è stata annunciata questa scoperta ovviamente è stata sottoposta al vaglio della comunità internazionale degli, degli astronomi, degli scienziati, e ovviamente è andata via via ridimensionandosi, aggiustandosi in termini proprio tecnici, di parametri dimensionali, di parametri di distanza, di massa di questo buco nero. Però all'inizio questa scoperta è stata annunciata, fece scalpore, perché ha fatto tanta scalpore. Si sa, i buchi neri nell'universo ce ne sono tanti, grandi, di grandissima stazza, di massa, ma anche più piccoli. Si sa che la nostra galassia, all'interno della nostra galassia, al centro galattico c'è un gran buco nero. Allora, questo è stato scoperto e si trova vicino, era subito, gli astronomi si sono resi conto, questo team, che questo buco nero si trovava più o meno a 13.800 anni luce dalla Terra. Con una massa molto grande. Cosa vuol dire una massa molto grande? Questo buco nero doveva avere più o meno 9 volte la grandezza del Sole. Ecco, una massa più o meno di 9 volte la massa solare. Però cos'è che ha suscitato molto scalpore rispetto a questa scoperta? Il fatto che in quella zona non ci doveva essere, non ci poteva essere un buco nero così grande. Quindi perché? Perché era una zona in cui, per la conformazione, la natura delle stelle, quindi per l'evoluzione stellare di quella zona, era questo tipo di buco nero era inconciliabile con le correnti teorie di evoluzione stellare. Diceva, perché in quella zona si presupponeva che quel buco nero, se ci fosse stato un buco nero, questo buco nero non avrebbe avuto più di 25 masse solari, invece questo era molto più grande. Allora si è passati poi a una valutazione. Ora, come hanno fatto a scoprire un buco nero? Ecco, io questo vi voglio dire, poi passerò la parola al nostro ospite. Ci sono ovviamente, un buco nero tu non lo puoi vedere, appunto, dal nome. Perché? Perché così il buco nero ha una massa così grande. Il buco nero innanzitutto deriva dalla fine di una stella. Quando una stella si presuppone che ha una massa 2,5 volte, cioè circa la massa del Sole, questa stella nel suo fine vita può evolvere fino ad arrivare a un buco nero, cioè la sua massa collassa per una forte attrazione gravitazionale, aumenta molto la densità del campo gravitazionale, a questo punto diventa un attrattore in cui risucchia tutta la massa che gli capita a tiro. È addirittura nero, perché non esce anche la luce. Per quanto è forte, neanche la luce, che ha una velocità enorme di fuga, che è 300.000 km al secondo nel vuoto, questa, la luce non esce. Ora, però, non vuol dire che non c'è nulla. Infatti è un corpo massivo, molto massiccio. Come lo si fa a vedere? Si può vedere attraverso diversi metodi, a seconda anche della struttura di questo buco nero. Ogni tanto il buco nero, la massa che viene attirata, emette radiazione elettromagnetica visibile prima di spirareggiare rapidamente dentro al buco nero. Però ci sono dei buchi neri che questo fenomeno non avviene in certi buchi, e questo era uno di questi. Come si fa? Attraverso lo studio delle stelle binarie, cioè si vede, molte volte si analizzano delle stelle, e in queste stelle si vede che ha un'orbita, il moto delle stelle, e di quella stella che uno vede, è un moto che si può spiegare solo se uno considera che c'è vicino una compagna o una compagna, quindi o se un'altra stella si vede. I sistemi binari sono tantissimi nell'universo, ma se non c'è la compagna binaria, facendo delle analisi molto raffinate di orbita, non entro in dettagli in questo caso, si vede che c'è vicino qualcosa di molto massivo, e quindi due corpi, immaginate questo buco nero, un corpo molto massivo, questa stella, e orbitano uno attorno all'altro come se fosse una danza, attorno a un centro di massa. Bene, questa stella aveva qualcosa che non andava. Questa stella si trova nella costellazione dei Gemelli e si chiama LB1. Attraverso queste misurazioni si è visto che aveva un'orbita attorno al centro di massa di circa 70, sì, il centro di massa è il centro dove orbitano vicendevolmente sia il buco nero che la stella che è visibile, di 79 giorni. Ora, quindi questa andava, appunto, a questa scoperta andava a collidere con le varie teorie evoluzionistiche stellari. Ora, però, ovviamente dico che è stata soggetta a molte critiche, a molti sviluppi. Adesso ce lo faremo dire dal nostro ospite, come si è evoluta questo dibattito scientifico a livello internazionale rispetto al primo annuncio che è stato fatto. Ora io non mi dilungo oltre, passo la parola al nostro ospite, ve lo introduco perché lui è un astronomo bravissimo che si chiama Mario Lattanzi, è dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio Astronomico di Torino e si occupa principalmente della misura dei parametri delle stelle della nostra galassia legati alla gravità, appunto, e appunto di questa scoperta lui si occupa della determinazione appunto del buco nero. Ora, buonasera Mario, mi senti? Ciao Jacopo, benissimo, sì. Spero di essere stato più o meno approssimativo nella velocità della radio, più o meno esaustivo. sì, bravi. Allora io ti volevo chiedere, allora io ho anticipato questo, non so se sono stato più o meno esatto, non so in questo ultimo periodo quali sono stati gli sviluppi di questa, so che c'è stato anche all'inizio un problema, non ho introdotto però voglio che lo faccia tu perché io so che tu hai lavorato tantissimo anche col satellite Gaia, che è un satellite di astrometria di cui tu sei stato uno dei principali artefici, giusto? Certo. Vado io? Sì, prego. Racconta un po' la storia. Allora, certo, no, direi che sei stato, hai colto i punti essenziali. Volevo intanto chiarire, perché a un certo punto sulle masse, quindi hai detto bene, che se un buco è nero è chiaro che non si vedrebbe se fosse isolato. Ecco, questa è una cosa interessante, cioè questi sono una particolare classe di buchi neri, quello che è stato soggetto alla scoperta, che in realtà sono silenti in altre lunghezze d'onda o emettono poco in altre bande di energia in cui è più comune che si scoprano buchi neri. Cosa voglio dire? Si conoscono una ventina di buchi neri galattici nella nostra galassia, questo è molto importante. Però sono tutti emettitori dovute proprio al fatto che requisiscono la massa che hanno attorno, quindi in maniera violenta si vedono zone attorno a buco nero in cui vengono emessi per esempio raggi gamma, raggi X, eccetera eccetera. Ecco, questo oggetto non emette in nessuna di queste bande e questo è interessante, magari poi ci torniamo sul fatto di quanti possibili buchi neri ci sono nella nostra galassia, che è una cosa molto interessante e ha a che fare con tutta una serie di questioni legate a quanta massa c'è nella nostra galassia. È chiaro che una popolazione non scoperta di buchi neri che non si vedono sarebbe un fattore di correzione importante, ma torniamo un attimo alla nostra scoperta. Quindi un buco nero silente, così chiamato silente, e quindi fa parte, questa è una scoperta, di un programma dedicato, perché questo è importante poi per farvi capire un pochettino come lavorano i cinesi, programma che è iniziato 2 anni fa mettendo a disposizione tantissimo tempo uomo con un telescopio dedicato che i cinesi hanno costruito qualche anno fa. E per 2 anni hanno monitorato una zona di cielo, sempre quella, nella zona appunto, nella zona dei gemelli che dici tu, molto ricca di stelle. E un campione di 3-4.000 stelle proprio per vedere se qualcuna di queste, no, mostrasse delle segnature, quelle che poi dicevi tu, queste sposte utilizzando spettrografi, quindi vuol dire guardiamo i fotoni. E utilizzando l'effetto Doppler si guarda se questi oggetti si muovono in qualche modo. L'effetto Doppler è quello delle ambulanze, per capirci. Quando si avvicinano sentite che il sibilo, la frequenza aumenta, quando si allontana la frequenza diminuisce e la frequenza diminuisce. Quindi quello che succede, il modo per detectare questi oggetti con gli spettrografi è che le righe di emissione cambiano posizione rispetto alle righe che si avrebbero in un laboratorio, che uno realizzerebbe in un laboratorio. Quindi questa è la tecnica molto semplice che gli astronomi conoscono da tantissimi anni per scoprire questi oggetti, ed è quella utilizzata. Ma visto che di nuovo il buco nero, come si fa? Ecco, erano stelle molto brillanti e la speranza era che fossero compagne, quindi oggetti binari, che queste stelle brillanti, perché brillanti per fare misure molto precise di velocità radiali, telescopi da terra fanno quello che possono per fare misure precise, bisogna avere una buona risoluzione, quindi è chiaro che più fotoni arrivano meglio è. Per avere i fotoni bisogna avere stelle brillanti. Quindi si stavano guardando delle stelle brillanti, la speranza che mostrassero un segnale di questo effetto Doppler, un segnale ballerino che mostrasse la presenza di una compagna oscura. Quindi questo è un po' il principio che ha guidato i colleghi cinesi. Noi abbiamo messo a punto questo programma, ha dato un piccolo contributo qualche anno fa in uno dei miei viaggi a Pechino, perché il professor Chi Feng è dell'Osservatorio Nazionale di Pechino, e avevamo aiutato un pochettino a scegliere anche queste regioni. Quindi la prima cosa, appunto, sistema binario in cui la compagna visibile è molto brillante, è una stella di tipo B, questa è la cosa interessante, è stella molto giovane e massiccia. Ecco, questo ti è scappato questa piccola correzione che devo farti, è che la stella di 9 masse solari è proprio questa stella compagna, quella che si vede. D'accordo? Il buco nero presupposto era 68 volte. 68, cioè, bravissimo. No, ma vabbè, poi ti sei detto benissimo. No, perché i buchi neri di 9 masse solari ci sono, quindi la teoria li ammette. Ecco, la cosa interessante, e arrivo poi al punto, quindi questa prima parte, insomma, di messa a punto della chiacchierata iniziale, appunto, che questo il numero che veniva facendo l'orbita spettroscopica soltanto, e il satellite Gaia aveva, che io appunto guardavo i dati disponibili, avevo visto che c'era qualche anomalia sulla sua distanza, nel senso che la parte fotometrica diceva che fosse attorno ai 4.000 parsec, cioè quei 13.000, circa 13.000 anni luce di cui parlavi te, numero molto preciso che hai dato, mentre Gaia lo stimava a una distanza molto più vicina, quindi sbagliando in qualche modo. D'accordo? Quindi, sui 7.000 mi pare, giusto? Sì, la metà, addirittura la metà, proprio la metà, quindi un errore molto grande, e dai parametri di qualità di Gaia si vedeva che questo oggetto era molto particolare, e infatti tornava col fatto che fosse una doppia. Questa combinazione aveva detto di essere sulla buona strada. L'orbita, e qui è il punto, poi ci torniamo fra un attimo, l'orbita puramente spettroscopica, fatta solo con l'effetto Doppler, mostrava, quindi stiamo vedendo, come dicevi tu, il moto della stella brillante attorno al centro di massa comune, dava un periodo di 80 giorni, quindi molto bene, c'erano dati su 2 anni, quindi il periodo è determinato molto bene, e nel tentare di risolvere, e facendo l'ipotesi, classificando la stella visibile come una stella di tipo B, quindi vuol dire circa 9 masse solari, viene fuori che la massa che meglio fittava i dati a disposizione fino al novembre dello scorso anno, in realtà i dati arrivano, si fermano un pochettino prima, il novembre è quando è uscito il lavoro su Nature, veniva fuori che siamo attorno alle 70 masse solari, è chiaramente più o meno un errore. Questo sarà poi lo spunto per chiacchierare appunto di quello che è successo da quell'annuncio, da quella scoperta delle cose. Il punto è che un buco nero stellare di 70 masse solari con quella metallicità, perché questo oggetto è a metallicità come il nostro Sole, diciamo la stella che si vede a metallicità come il Sole, quindi, ed essendo giovane, insomma, si è formata qualche milione di anni fa, qualche centinaia di milioni di anni fa il sistema, visto che la stella B è molto giovane. Bene, questo ci dice che la massa, la teoria corrente dice che la massa a fine vita, come dicevi tu, di un buco nero non può con una certa metallicità solare non può superare le 25 masse solari. E ora capite che qui si è scatenato il putiferio, e come è giusto che sia. Va bene, Mario, allora, perché... scusa, sì, ti interrompo, il putiferio ce lo dici dopo, mandiamo uno stacco musicale, perfetto, che i tempi ce lo impongono, 2 minuti e torniamo da te. E mandiamo proprio Black Hole Sun, così è a tema. Grazie. Thank you. irresistibile Black Hole Sun, non era possibile non metterla parlando di buchi neri. Continuiamo adesso, ripasso la parola al comandante Iavo, continuiamo un po' ad affrontare il nostro tema del giorno e piano piano ci avviciniamo al secondo tema del giorno che tutti quanti, le nostre menti e i nostri corpi, speriamo di no, i nostri menti per ora riempie. E niente, quindi rilascio la parola al comandante Jacopo con l'intervista del nostro clamoroso mitico ospite. Eccoci qui, e di nuovo Mario. Allora, eravamo rimasti al putiferio, ecco. Un buco nero che non ci doveva essere di quella massa, che succede? Ecco. E qui è quello che è successo, è quello che deve succedere sempre quando si affrontano questi argomenti e quando quando una teoria viene sfidata dalle osservazioni. È chiaro che questi limiti sul non si può formare un buco nero più grande lì sono limiti molto, non ci sono teoremi o equazioni, sono senza entrare in troppi dettagli, diciamo che è un limite che in qualche modo deve essere comprovato costantemente dalle osservazioni. Ora capite che la scoperta di questo oggetto era estremamente una sfida clamorosa a quelle che è ormai un modello accreditato da un paio di decenni almeno sulla massa limite di un buco nero, diciamo che si origina da una metallicità di un contenuto di metalli come il Sole. E il punto è che questo è il primo. Capite che allora La domanda che subito è stata fatta immediatamente dopo la pubblicazione e quindi qualche lavoro è uscito nel frattempo da novembre a questa parte, che appunto sfidano questa massa, e che dal punto di vista osservativo dice: ma il fatto che sia uno, ora supponi che confermiamo questa massa così grande, allora è un accidente della natura che ci può essere, e quindi bisogna fare una teoria apposta per un solo oggetto, oppure di questi oggetti possono esserci, o questo è la punta di un iceberg, di una popolazione di buchi neri silenti che permea la galassia. Una ipotesi è che per esempio ce ne sono una decina di milioni di questi buchi neri che vagano sono più o meno piccoli, ma l'idea è che la galassia sia permeata di buchi neri che vagano nella nostra galassia, quindi con un impatto molto importante sulla massa della nostra galassia. Quindi era il primo, e allora è chiaro che dovevamo in qualche modo mettere a prova questa scoperta. E l'altra cosa sono gli errori, ecco la cosa che vi dicevo. Noi quando diamo 70, in realtà se andate a guardare l'articolo vi dice che c'è un errore abbastanza grosso su questa massa. E l'errore è quello che si chiama un sigma, cioè attorno a questo 9 dice che potrebbe essere minore di 13 masse solari, quindi 68 è il numero che davamo, bisogna togliere 13 masse. In realtà questo è, come si dice, un sigma, quindi può succedere, sarebbe compatibile con la statistica di questo errore avere in realtà una massa vera, quindi la massa sta dentro questo numero, 68 più 11 masse meno 13 masse. E ora, grosso modo, quello che diciamo noi gli astronomi è che la massa vera di questo oggetto sta entro più o meno 3 volte, quindi 3 volte 11 e meno 3 volte 13, quindi capite che siamo arrivati molto vicini alle 25 masse solari che sarebbero ancora compatibili con la teoria. Quindi capite, spero di avervi dato un pochettino può suonare poco eccitante per noi, ma tutto questo ha veramente scatenato diversi team che da una parte i teorici, dall'altra gli osservativi, per capire. Ecco qui allora che adesso Gaia, che è uno strumento astrometrico, cioè misura angoli per capirci, ed è la tecnica alternativa a quella del Doppler per misurare gli spostamenti. Gli spostamenti di questi spostamenti in sistemi binari. Invece di usare i fotoni, cioè quindi l'effetto, la sirena che va e viene, l'astrometria misura questi piccoli spostamenti apparenti nel cielo. Sono spostamenti piccolissimi, e quindi io provo a dirvelo, stiamo parlando di alcune decine di microsecondi d'arco. Una cosa piccolissima. Per anno, quindi immaginatevi, ecco, per darvi l'idea di quant'è una decina di microsecondi, vuol dire che è l'angolo che una monetina di 20 di 20 centesimi di euro sottende dalla Terra alla distanza della Luna, per capirvi di quanto deve essere sensibile questo oggetto. Ci siamo riusciti, è un satellite molto tutto europeo che si è andato in rete, vedete insomma quanti risultati sta dando, sta un po' rivoluzionando eccetera eccetera. Adesso noi abbiamo i dati di epoca, quindi abbiamo come fatto con i telescopi, vi dicevo, per con gli spettrografi da Terra. Gaia ha monitorato, sta monitorando in realtà ancora, ma nel frattempo abbiamo ridotto soltanto 30 mesi di dati su questo oggetto, e adesso stiamo mettendo dentro insieme sia i dati astrometrici di Gaia e li combiniamo con gli stessi dati spettroscopici presi, appunto, che nel frattempo anche quelli sono aumentati, sono continuate la campagna osservativa per aumentare la precisione di questo oggetto. E adesso io non posso dire troppo perché non è questione che, siccome i dati di Gaia sono dati proprietari, quindi è importante che io sia prudente, e quindi stiamo valutando queste cose, però ecco, diciamo che qualche cosina stiamo rosicchiando a quella massa iniziale, ma l'oggetto sembra consistentemente sopra la soglia di quella famosa soglia di 25. Insomma, per farvi capire, questo sembrerebbe comunque il buco nero più grosso, più massiccio mai osservato. Vi ricordo soltanto che, appunto, per farvi capire quel limite di 25 che cosa rappresenta, in realtà la ventina di buchi neri, un po' meno di 20, che vi dicevo, della nostra galassia, non quelli lontani che possono essere anche un milione di masse solari, no? Diciamo, sono cose enormi, come quello che sta, il buco nero che si pensa stia al centro della nostra galassia e che si è formato dal merging di galassie quando si formò la nostra Via Lattea. Quelli sono milioni di masse solari, questi sono oggetti che si formano alla fine della delusione solare, dell'evoluzione stellare, come diceva Jacopo. Ecco, in questo caso sta su tutti quelli che si conoscevano prima, quelli scoperti con i satelliti X e con i satelliti Gamma, sono meno di 20 masse solari. Ecco, il più massiccio non arriva a 20 masse solari, questo sembrerebbe stargli sopra a questa soglia, quindi in ogni caso sempre più grosso. Però adesso, se sia o meno sulla soglia dei 25, quindi se bisognerà davvero ripensare un pochettino, dare qualche aggiustamento alla nostra teoria di formazione dei buchi neri metallici che vengono da stelle, fine vita di stelle metalliche come il Sole, questo bisognerà attendere ancora un pochettino. Se tutto va bene, lo sappiamo, un'ulteriore risposta, un avanzamento con i dati di Gaia si saprà verso la fine di quest'anno, quando sarà possibile pubblicare i risultati che stiamo valutando. Benissimo, allora li attenderemo con estremo interesse. Quindi, ma certo, lo faccio, a te sicuro te lo faccio sapere. Così casomai ci facciamo un'altra bella puntata, restringendo queste sigma, dando un risultato più meno incerto. Questo è quello che fa la scienza, noi questo. Non ci siamo offesi. No, certo, infatti. Delle però critiche, anzi, le abbiamo sollecitate ed è importante che, diciamo, questa è la parte sana dell'agone, certo, scientifico, è giusto che sia così. Certo, e c'è anche un po' la parte, ecco, adesso passiamo un po' alla, con te volevamo parlare, come abbiamo anticipato, un po' della, certo, seconda parte di Scienza e Potere, insomma, ecco, perché spesso, soprattutto oggi, in questi giorni, vediamo anche che da un punto di vista rispetto al coronavirus abbiamo avuto tantissime informazioni, anzi troppe, anche molto contrastanti, anche rispetto a pareri scientifici contrastanti, senza fare nomi, però abbiamo avuto chi diceva che era semplicemente un'influenza, chi invece, come poi invece sta avvenendo, è molto più mortale, ecco, senza parlare del coronavirus, però ecco, sono scienziati, in questo caso virologi e immunologici, che hanno opinioni contrastanti. Ora, fin quando rimane come dicevi tu, nel dibattito sano della scienza, ha senso. Nel momento in cui però lo scienziato deve mi stanno facendo delle segni della regia, quando invece queste opinioni sono fortemente condizionate da tantissime, se vuoi, cause e con cause, esigenze, possono essere politiche, di interesse economico, eccetera, eccetera. Ecco, a questo punto la scienza e lo scienziato, l'autorevolezza, diciamo, dello scienziato viene meno. Ora, Tu rispetto alla tua carriera, rispetto alle tue vicissitudini da scienziato, anche rispetto a queste grandi collaborazioni internazionali, noi sappiamo molto, conosciamo meglio le dinamiche dei processi che avvengono nello sviluppo scientifico occidentale, ma quando si hanno collaborazioni con i cinesi, questo nuovo mondo, perché adesso lo conosciamo, siamo portati per forza anche a conoscerlo di più, se è lo stesso, se qual è i punti vantaggi, dove invece che ti sei trovato, questa è la domanda, ti sei trovato un po' più a disagio. Un attimo prima della risposta ci ha chiamato, se l'ho capito bene, ci dovrebbe chiamare un ascoltatore che voleva fare una domanda, quindi visto che non ha chiamato in diretta lo invitiamo a richiamare in diretta e poi intanto che andiamo avanti con la risposta e poi lo mettiamo in ascolto, insomma. Va bene, quindi Mario, questa era la domanda, insomma. Sì, no, questa è una cosa che io mi sono chiesto. Tieni conto che la mia prima volta in Cina è stata nel 2002, quindi ormai sono 16 anni che... E qualcosa che era iniziato, in realtà io quando ero negli Stati Uniti ospitammo una delegazione cinese agli inizi degli anni 90, ecco, quindi questa fu, e mi ricordo che loro uscivano molto contingentati, c'era una professoressa di Shanghai con un suo giovanissimo collaboratore con cui poi sono diventato amico negli anni, ma sono ritrovato, diciamo tutto è nato da questa primo tentativo di questa apertura in cui gli americani insomma avevano concesso dopo i ping pong le cose, vi ricordate, se sono abbastanza, qualche anno ce l'ho, quindi ecco, non mi ricordo tutto, però ecco, mi ricordo questa delegazione che fece il giro diciamo della costa est degli Stati Uniti, erano scesi da Yale, erano stati all'Università di New York e poi erano venuti a Baltimora, lì all'Istituto dello Space Telescope dove lavoravo, e quindi e furono insomma assegnati al nostro team di fargli fare un pochettino, di fargli vedere le cose che facevamo. Allora, tornato in Italia, ci siamo sentiti e partì nel 2001 la prima volta a Shanghai, a Pechino. Ecco, è difficile dire, quello che posso dire sono un pochettino i numeri degli anni in cui, l'ultima volta che ho fatto il conto era il 2017, quando sono stato lì per circa un anno, scusami, il 2015, quando sono stato lì per circa un anno, e tieni conto che nel giro di 2012-2015, quindi nel giro di 13 anni, neanche due lustri, neanche tre lustri, questi, il numero di ragazzi, di PhD che si diplomavano nel 2002 erano una decina, nel 2015, visto che ne facevo il supervisore di un paio di loro, che poi sono in collaborazione qui con noi, con l'università nostra, erano diventati 130, questi erano i numeri che mettono in campo. E dal punto di vista della qualità, un miglioramento enorme, facevano fatica a parlare l'inglese, in questo momento diciamo il gap della lingua è sostanzialmente annullato, anche se qualche difficoltà c'è a seconda della tipologia di persone che si incontrano, se sono tecnici, se sono astronomi, insomma queste cose qui, le stesse cose che possono succedere a noi. Il punto è che ho visto una ricerca molto libera, ecco, io so che parlare, l'unica cosa, dico, se qualche cosa i primi anni quando giravamo per gli istituti eccetera, qualche persona, come dire, che non avevo visto prima c'era, non ho veramente, ho visto persone molto molto entusiaste nella ricerca, con delle risorse enormi rispetto non tanto alle persone appunto, ma dal punto di vista dei finanziamenti avevano risorse enormi, e mano a mano poi nel tempo anche rispetto al valore assoluto, nel senso che è vero che loro vanno agli UN, ma diciamo che hanno finanziamenti spesso superiori ai nostri, quindi ci vuole ben poco loro. Sì, qui bisognerebbe parlarne per settimane, sì. Non è facile, ma ecco, una cosa che mi ha colpito, proprio perché dici, non ho trovato troppe differenze, anzi forse scimmiottavano troppo gli Stati Uniti, cioè un modo molto libero di fare ricerca, molto competitivo, che forse adesso stanno cercando di, questo avevo avuto l'occasione di fare la review di uno dei loro istituti, quello di Shanghai, e poi facevo parte di un panel internazionale, cioè si sono esposti anche a review internazionali. Io durante questa review, eravamo 7-8 colleghi diciamo che venivano poi da tutte le parti del mondo, compresi due americani, nessuno, qualcuno addirittura della Cina, diciamo vicina, insomma, quella che loro, con cui i rapporti sono, l'università di lì, e addirittura mai avuto pressione di sorta. Quello che per esempio potevi notare è che quando c'è stata il briefing finale, mentre da noi in genere si fa in un'assemblea dove partecipano tutti, anche i ricercatori, lì, ecco, c'è stata un po' a porte chiuse con la commissione e soltanto i capi progetto dell'istituto, dell'osservatorio di Shanghai. Dicevo, ecco, c'è una forte gerarchizzazione, questo sì, nel senso che i ruoli sono molto precisi, ma dal punto di vista della ricerca ho visto una libertà assoluta, estrema per certi versi, cioè cercano di, forse finalizzata a brevetti, forse finalizzata a cercare cose nuove, ecco, c'è questa ansia di far parte della comunità internazionale, che voglio dire, con un atteggiamento anche, come dire, non da nazione, un po' al contrario. Sto parlando dell'astronomia, perché qui bisognerà poi distinguere molto bene, perché l'esempio che facevi tu tocca colleghi in altri ambiti come dire biologia, biochimica, lì ci sono medicina, lì ci sono interessi formidabili dietro, quindi potrebbero esserci motivazioni altre, cose che almeno per ora, insomma, sono soltanto limitate nella parte bioastronomica, ecco. Sì, certo. Però ecco, questo mi ha colpito la voglia di fare, la voglia di aprirsi, e che mi ha spinto a continuare, insomma, non avrei avuto nessun'altra motivazione nel continuare per tutti questi anni se non avessi incontrato gente molto in gamba, ragazzi molto in gamba, e una possibilità di fare ricerca. Fatto sta appunto che proprio a dicembre dello scorso anno abbiamo appunto adesso una collaborazione via il Ministero proprio tra Torino e Shanghai, e quindi è una collaborazione tra il Ministero degli Esteri e il Ministero della Ricerca loro, e ci hanno approvato un programma triennale addirittura tecnologico. Ecco, questo sarà interessante vederlo, perché qui potrebbero essere coinvolti brevetti, eccetera, quindi vedremo da quest'altro punto di vista. Quindi, diciamo, la mia esperienza era forte nella scienza pura, se vuoi, e quindi strettamente astronomica, e qui adesso è sempre astronomica, ma ci potrebbero essere cadute interessanti. Però massima apertura, ed è la stessa impressione. Per esempio, parlavo un pochettino con il nostro referente scientifico a Shanghai, quelli che si chiamano, no, nelle ambasciate più grosse, Shanghai, Pechino e Guangzhou, mi pare, scusami, questo è il coronavirus, non mi ricordo l'altra grossa città dove hanno gli uffici scientifici i nostri consolati. Quello di Shanghai mi diceva appunto che condivideva questa impressione di persone estremamente aperte e, come dire, nonostante tutte le possibili, come posso dire, preconcetti che uno poteva avere. Questo è quello che mi ha colpito e che penso di condividere. Benissimo. Il potere probabilmente c'è, come posso dire, una cosa che colpiva, per esempio, colpisce tuttora, che se il discorso comincia a fare commenti su situazioni internazionali, guerre, complessità, che ne so, anche lo stesso inquinamento, eccetera eccetera, ecco che si fanno guardinghi non tanto verso l'interlocutore occidentale, con cui secondo me hanno voglia di discutere. Infatti poi ti dico un episodio che è successo questa mattina, quindi proprio sul coronavirus, ecco, si fanno, specialmente se siamo in un gruppo, sono un gruppo di loro, ecco, a questo punto noto che in genere questa tipologia di argomenti tende ad esaurirsi quasi immediatamente. Non si sottraggono le domande, ma se invece siamo, diciamo, in una stanza, ragioniamo, che ne so, mentre facciamo una pausa da un articolo che si sta scrivendo, qualche dato che stiamo analizzando, e partono queste considerazioni, qualcosa di più ti dicono. E certo, ci sono aspetti della loro impostazione, anche della vita, insomma, di tutti i giorni, in cui qualche limitazione c'è ancora. Certo, è una società grande, molto complessa, come tutte le società, piene di pro e contro, molto, contraddizioni. Molto complessa, ma vedo una popolazione che, come dire, la sento molto affine, ecco, molto affine. La sento molto affine, è paradossale, perché la loro lingua è estremamente complicata, quindi, certo, quindi è loro che fanno il passo in avanti, per noi parlare quella lingua è estremamente difficile. Certo. Va bene, ma... Mario, per me insomma ti ringrazio tanto, non ti voglio sottrarre altro tempo, è stata una preziosa sia... Ti dicevo solo, ci tenevo perché stamattina li ho sentiti i colleghi, sì, e ci hanno chiesto come stavamo. E io un mese e mezzo fa chiedevo a loro se serviva qualcosa che gli mandassimo, quindi questa non è una battuta, ma è successo veramente questa mattina, quindi se, ci tenevo a condividerla con voi. Pure oggi io facevo più o meno una battuta simile al lavoro, dicendo che, visto che qui noi italiani insomma siamo sempre un po' carloni nel rispettare le regole, anche in questo caso, no? Gli esempi oggi sono stati qui il paradosso della, no? Qualcuno e non voglio dire chi, non voglio aprire polemiche, le scorse settimane parlava lì hanno piazzato i carri armati eccetera, adesso glieli stanno chiedendo qua. Sì, infatti, almeno lì sarebbero giustificati per l'impostazione politica. Forse dovremmo chiedere ai cinesi qui come si fa a gestire. No, sono stati molto bravi, però probabilmente molto più, come dire, sono più abituati a, insomma, rispettosi delle regole. La microcriminalità lì non esiste, certo. e c'è una ragione, insomma, ecco, le punizioni sono estremamente severe e qualche cosa non è trasparente, insomma, ecco, non voglio dire altro perché non è. Vabbè, però ci siamo capiti. Sì, siamo capiti benissimo. Eccoti. Va bene Mario, allora ti ringrazio, grazie tante, spero di rinvitarti quando tu mi farai sapere quando ci saranno ulteriori sviluppi di questa bellissima avventura scientifica. Ti ringrazio, ti auguro buona serata. Mi raccomando, adesso... come si dice in inglese, keep up the good work. grazie mille, adesso mandiamo un piccolo stacco musicale e poi ci avviamo alle nostre considerazioni finali. Io vi saluto, se per voi va bene che vado a cena. Va bene Mario, buona cena. Ciao, saluto, buon lavoro, grazie. Ciao. Rientriamo in audio dopo che abbiamo lasciato Come and See con Fuck Off the Whole World, che ci piace tanto questo pezzo. Rientriamo in audio, ringraziamo, abbiamo fatto un po' una carrellata, è stato molto interessante anche diciamo il finale sulla libertà e sul, diciamo, gli spazi di controllo della scienza, cioè, per quello che siamo riusciti a capire che ci sono in Cina. quello che stiamo vivendo in Italia in questo periodo in corso, i dati saranno già stati dati in precedenza, i dati attuali confermano le più fosche previsioni, tant'è che c'è stato un incremento di casi, il maggiore incremento di casi dall'inizio diciamo della crisi, se vogliamo chiamarla così, con circa 1600 casi in più rispetto a ieri. Il tasso di incremento continua ad aumentare. Un aspetto che ci interessa come diciamo come trasmissione che quest'anno Libera Scienza e Libero Stato, ma tutta Entropia Massima, abbiamo deciso di far attraversare a tutte le puntate, sono i rapporti tra scienza e potere. In questi ultimi giorni non riusciamo ovviamente a decifrarlo, no? Quello che sappiamo è interessante, ne abbiamo parlato prima, ma ci sono vari, insomma, non si può approfondire in pochi minuti, però in Cina il potere ha agito al massimo, come abbiamo visto in televisione, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità in televisione, sui media, anche con durezza, insomma, senza giudicare, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità adesso ha emesso un report dopo 9 giorni, dicendo che le misure cinesi, senza voler dare giudizi di merito, sono state efficaci nel controllo dell'epidemia e hanno determinato il fatto che oggi, mi pare, in Cina ci sono stati 40 o 50 contagi soltanto. Quindi la situazione è ampiamente sotto controllo. Tutto quanto è legato all'adozione di misure di contenimento che abbiamo visto tutti quanti, non c'è bisogno di ripetere, estreme, ci permette tra l'altro di conoscere molto bene come è andata la diffusione lì, e quindi ci permette di esportare dei modelli di diffusione che vengono prontamente acquisiti qui in Italia, in Europa, nel mondo in realtà, dagli scienziati, perché i cinesi, una delle caratteristiche delle azioni che hanno fatto è stata quella di adottare una massiccia campagna di screening della popolazione, e quindi le percentuali, diciamo, di contagio sono tutte verificate per quel tipo di popolazione cinese, con quelle fasce d'età, con quel tipo di sviluppo di fasce d'età. Quindi sono stati prodotti anche una grande mole di dati statistici, epidemiologici, quindi dati scientifici. La comunità scientifica italiana, molto articolata, abbiamo visto in questi casi, prima Jacopo faceva riferimento, e adesso lo diciamo, a delle dichiarazioni che abbiamo sentito, prima fra tutti ci ha impressionato molto a tutti quanti il contrasto che c'è stato circa una settimana fa tra la virologa del capo del laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano e il ben noto Burioni, anche lui virologo e professore, sempre a Milano, con due posizioni, due posizioni, si sta rivelando più vera quella di Burioni.